Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, andiamo nel nord del Piemonte, stasera in provincia di Verbania, lungo il Lago Maggiore, per parlarvi di un progetto di VCO Trasporti, che è l'azienda di trasporti pubblici locali appunto della provincia di Verbania, che in uno dei rari casi di public procurement che si vedono nel nostro paese ha commissionato a due laboratori privati, Green Lab e Nislab, la messa a punto di un processo innovativo per la produzione di biofuel e quindi di carburante liquido di origine bio, insomma un sostituto del gasolio, che una volta prodotto servirà ad alimentare gli stessi mezzi di trasporto della società. E c'è appunto un'importante novità, ce ne parla Federico Pedrocchi, sentiamo. Questa sera qui con me Emilio Conti, buonasera Conti. Buonasera. Lei è un tecnico di Green Lab, avete lavorato a questo progetto e insomma io qui per dirla in fretta e un po' simpatica, l'elemento di novità è che si estrae biofuel anche dal pollo, che è una delle cose che mangiamo di più nelle nostre case, però adesso insomma raffiniamo un po' di più la cosa, ma la sostanza è un po' questa, cioè riuscire a recuperare biofuel anche dal cosiddetto umido, che è quella parte, no, dei nostri rifiuti che dovrebbe essere raccolta sempre di più, perché al momento invece è una delle raccolte differenziate meno praticate. Ma comunque mi dica lei. Sì, dunque diciamo l'idea nasce appunto per nasce da VCO Trasporti per valorizzare la frazione organica dei rifiuti raccolti nel Verbano Cusio-Ossola, partendo dal fatto che la raccolta differenziata nel Verbano Cusio-Ossola ha una percentuale molto alta, intorno al 65%, e in termini quantitativi sono più di 12.000 tonnellate all'anno solo di frazione organica dei rifiuti che vengono raccolti nel VCO. Ecco, questo è un dato importante, perché lì c'è appunto la raccolta di umido, certo. Lì c'è la raccolta di umido, è una raccolta che viene fatta porta a porta e è un umido, diciamo, possiamo dire di qualità, molto selezionato. Partendo da questo, l'idea è di cercare di produrre del biodiesel o green diesel come si chiama, partendo non tanto dalle coltivazioni che vanno a mettere in competizione delle colture energetiche con delle colture di tipo alimentare, ma andare a utilizzare proprio la frazione organica dei rifiuti che, come ha detto lei, contiene anche, diciamo, l'osso di pollo, certo, per intenderci, per cui non solo vegetali ma anche, certo, ovviamente rifiuti di origine organica, certo, organico, ma di tutti i tipi. Il combustibile, il biocombustibile dal vegetale ormai si tira fuori, anche dal vegetale non pregiato, ma qui effettivamente il meccanismo virtuoso è che lo si tira fuori anche dall'umido, con un sistema tecnico, con una procedura tecnologica che è la stessa del biodiesel, del biofuel in generale, oppure avete inventato qualcosa di specifico? No, non è la stessa, perché per il biodiesel, diciamo, da vegetale tradizionale si ha una pressatura, un'estrazione dell'olio o un'estrazione dell'olio chimica e poi quella che si chiama in gergo tecnico una transesterificazione. Noi siamo passati, proprio perché abbiamo presente un po' tutto l'umido che può essere prodotto nelle nostre case, siamo passati attraverso un processo di pirolisi in cui fondamentalmente si trasforma, si decompone, si smonta, se vogliamo, per usare un termine molto comprensibile, la materia organica presente, fornendo del calore a una temperatura non molto elevata, normalmente tra i 400 e i 600 gradi, in assenza di ossigeno. In questo modo si produce un olio che dai nostri risultati è, diciamo, comparabile all'olio greggio che si produce, si ricava dal petrolio, per cui dall'olio minerale. Okay. Da questo olio si potrà, attraverso una raffinazione, arrivare alla produzione, né più né meno come si fa dal petrolio, arrivare alla produzione di green diesel, che però a questo punto è di origine organica, certo, di origine, sì, sì, rinnovabile. Quindi c'è proprio anche un percorso completamente diverso. L'idea è che un impianto in zona può essere costruito e dedicato a questo tipo di processo. L'obiettivo sarebbe questo, nel senso che in questo modo si chiuderebbe il cerchio. Certo. Raccogliendo i rifiuti si valorizzano e si produce una materia che può essere a sua volta riutilizzata come carburante ad alto contenuto energetico nei mezzi che circolano. Senta Conti, ma a che punto siamo? Cioè, l'avete già presentato questo progetto? Come siamo messi dal punto di vista? Abbiamo già presentato la prima parte. Il progetto è, come avrà capito, in due parti. Si parte dalla frazione organica dei rifiuti e si fa un primo step per arrivare all'olio. E questo è quello che lì ci siamo. E lì ci siamo. Il secondo step è raffinare quest'olio nel modo in cui normalmente si raffina il petrolio, per cui in raffineria e per tirar fuori, diciamo, del diesel o la frazione di diesel che ci interessa. Questa è la parte ancora da fare. Da fare. Però diciamo che la parte grossa è cercare di arrivare ad avere un olio con delle caratteristiche tali da poter essere poi raffinato in maniera abbastanza semplice, e diciamo che i dati sono del tutto incoraggianti su questo. Bene, allora appena le cose marciano ricontattateci e ne riparliamo quando, insomma, con le ossa di pollo siamo arrivati su strada. Perfetto, benissimo. Grazie, buon lavoro. Grazie a lei, arrivederci. E allora viva le ossa di pollo, ci fermiamo qui, appuntamento a domani.